La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, ecco il nostro spazio settimanale dedicato al cinema, agli approfondimenti sull'attualità cinematografica qui su Radio 24. È una settimana, come spesso capita di dire nelle ultime, molto molto ricca di uscite. Pensate, settimana scorsa 13, questa settimana 9, nelle prossime 3 settimane altri 30 nuovi film, fanno 50 praticamente in 5 settimane. Diteci voi se c'è lo spazio per andarli a vedere tutti. Però insomma, come sempre noi qui ve ne raccontiamo alcuni. Abbiamo voluto fare una scelta, visto che questo ricco percorso questa settimana è dominata dal cinema italiano. Noi abbiamo scelto 3 film italiani e facciamo una puntata tutta dedicata al cinema italiano, perché ce n'è di molto buono, anche di molto buono, in questo weekend. A cominciare da Anime Nere, il film di Francesco Munzi, presentato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia che si è appena conclusa. Il film che ha avuto i maggiori riscontri critici, ma che poi non ha avuto premi, ma in ogni caso è sicuramente un film molto molto bello, di clima classicamente nero, anche se poi tutto somiglia a una tragedia greca. Cominciamo ad entrarci con la clip. Più che così loro non c'entro. Ah, voi non sapete mai niente. Sei tu primo dei frati e non sapete niente. La prossima volta sparate le gambe. Per noi arriva il momento di chiudere con questo serpente. Mi dici cosa succede? Con tuo marito non c'è parri. La pagano. Se la pagano, è davvero Gesù Cristo. La storia di una famiglia calabrese sparpagliata per l'Italia e anche oltre confine, ma con le radici profondamente radicate, appunto, che affondano nella cittadina di Africo in Calabria, in Aspromonte. È lì che il giovane Leo, figlio di Luciano, una notte spara alcuni colpi di fucile contro una saracinesca, un piccolo episodio di bassa criminalità banale che però fa scaturire il riemergere quasi dai bassi fondi e dal dimenticatoio di una faida che non si era in realtà mai realmente sopita. E chiaramente non sono tanto i giovani in questo senso i protagonisti, quanto i fratelli fanno parte di questa famiglia, appunto Luciano, padre di Leo, dedito alla sua famiglia, non vorrebbe stare in questa storia di faide di traffici criminali, e i suoi fratelli, appunto, che sono trapiantati al nord in Olanda per portare su e giù per l'Europa droga che ha arricchito questa famiglia, soprattutto nei suoi esponenti che si sono allontanati e che dopo questi primi fatti di faida ritornano nel paesino calabrese, e lì ci sarà una vera e propria resa dei conti. Un film che chiaramente non va confuso con quelle che sono state le esperienze recenti di Gomorra, né televisive né cinematografiche, di Garrone, di Saviano. È un film sicuramente con una sua grande caratteristica noir, con il racconto di un'Italia che, come sentiremo fra poco dal regista Francesco Munzi, vista dallo spioncino, dalla finestra di Africo Nuovo, è un'Italia che spiega tante cose, ma è un film con una grande personalità estetica e anche una densità di racconto e di interpretazioni davvero straordinaria. Marco Leonardi, lo ricorderete, ragazzino in Nuovo Cinema Paradiso, è il fratello scalpitante, quello un pochino più violento. Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, gli altri due fratelli, Barbara Bobulova e Anna Ferruzzo, a completare un cast fatto anche di attori non professionisti. Allora facciamoci raccontare dal regista Francesco Munzi come è nata l'idea di questo film. Io ho tentato, intanto stavo lavorando un altro progetto, ho scoperto questo libro Anime Nere, di cui poi condivido il titolo perché lo trovo giusto, e sono stato folgorato, direi proprio la parola giusta, dalla carica emozionale, dalla carica viscerale che c'era nel raccontare questa storia. Quindi c'era uno sguardo così unico, così originale, che intanto ho avuto già una prima rassicurazione del fatto che non stavo in un territorio comunque non visto. Ho sentito il bisogno di andare a conoscere questo scrittore e di andare a conoscere soprattutto appunto il territorio che il libro raccontava, che è la Spromonte Calabrese. Ho dato un po' la certezza che stavamo muovendoci nella finzione, nella messa in scena, e allora nella messa in scena è uscita più verità che non, che certe volte che non nel documentario, che nel documentario si sarebbe sicuramente chiuso il territorio, perché avrebbero visto l'atteggiamento della cronaca del giornale, cioè quello di raccontare un posto che comunque era un posto maledetto. E invece il fatto di aver creato un progetto, qualcosa di positivo, già il fatto di fare, ecco, ha avvicinato la popolazione, ci siamo incontrati, ecco, abbiamo trovato un territorio comune. Mi ha colpito molto una frase che tu dici nelle note stampa: la gente mi ha spalancato le sue finestre e da quelle finestre l'Italia si vede meglio. Che Italia si vede dalle finestre di Africa? Ma intanto il fatto che l'Italia è tanta Italia, ecco, ho capito intanto di conoscere poco il mio paese, perché ho visto una parte del sud che un sentimento diffuso in questa popolazione, ovviamente non solo negli ambienti criminali, ma in un po' trasversale, di poca sintonia con col concetto dell'Italia, ecco, di sentirsi come una parte a sé. E ho capito anche tutta, insomma, le grandi questioni meridionali di cui si dibatte all'Ottocento sono ancora apertissime. Sono paesi dove l'italiano, ecco, si parla soltanto dialetto, e per questo era importante anche rimetterlo nel film, perché il dialetto, la lingua, rivendica un'appartenenza, un'identità, e rivendica anche una distanza dal nostro paese. Senti, il cast straordinario, in questo che tipo di lavoro hai fatto? Non tanto nella scelta quanto nella gestione sul set di attori di provenienze diverse, di categorie diverse, ma che sembravano insieme come fratelli. Allora, sul cast mi sono dato un metodo, intanto, siccome avevo scelto di girare il film nel dialetto di quel posto, ecco, intanto ho relegato la ricerca degli attori professionisti a quelli che provengono dalla Calabria, e dove non riuscivo a colmare tutti, anche dalla Sicilia, insomma, in generale dal sud. Nello stesso tempo ho costruito un'altra squadra giù in Calabria di non professionisti, che poteva coprire anche ruoli importanti, tra cui il ragazzo, ma anche dei capi clan. Dopodiché, quando ero abbastanza soddisfatto, ho unito le due squadre e insieme abbiamo riscritto i dialoghi della sceneggiatura, e quindi siamo arrivati a trovare una lingua comune. Nel frattempo loro si conoscevano anche, quindi a un certo punto, essendo anche diventati, non dico amici, ma insomma lavorando bene assieme, ecco, a un certo punto è successo quella cosa quando succede in un film molto bella, che erano già i personaggi anche quando non si girava, per cui io dovevo semplicemente cominciare a riaggrupparli, a richiamarli, e automaticamente erano già dentro un viaggio, nel mood giusto. I toni li abbiamo proprio trovati insieme. E questo era Francesco Munzi, regista di Anime Nere, sicuramente il film della settimana per quanto riguarda almeno le nostre scelte, ma sicuramente anche tutto il plotone di cinema italiano. Noi giochiamo insieme adesso con la prima traccia del film misterioso di oggi. Io mi chiamo Katie. Vieni con noi, da brava. Volete giocare? Attento, è malata. La Rosa Purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta, titolo e vostro indirizzo privato per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, di cui vi faremo ascoltare un'altra traccia. La Rosa Purpurea. Siamo ancora qui alla Rosa Purpurea, avanti con le novità cinematografiche tutte italiane di questa settimana, perché torna in sala anche Pupi Avati, un nome sempre importante del nostro cinema, molto molto attivo negli ultimi anni, con un nuovo film che si intitola Un ragazzo d'oro, e vede nel cast Riccardo Scamarcio nel ruolo del protagonista, e la presenza importante di Sharon Stone nel cast, insieme a Cristiana Capotondi e a Giovanna Ralli. Sentiamo la clip. Mi dispiace. Ma guardi, lei ha talento, si fidi di me. Ha il talento necessario a raccontare una grande storia. Non puoi lasciare da sola tua madre in questo momento. È tutto finito, la guerra con tuo padre è finita. È morto con la convinzione di aver fallito in tutto. L'ho fatto per quella che era fuori dalla chiesa. Era lei a farlo stare male. Stava lavorando a un libro. Era convinto che questo libro lo avrebbe risarcito. La pregherei quindi di cercarlo fra tutti gli scritti che ha lasciato. Lei è l'unica persona che abbia la possibilità di farlo. E allora, il trailer del film a raccontarci un po' il clima noir anche in questo caso, anche se questo è un noir intimo dove non si spara, insomma, di un ragazzo d'oro, la storia di un giovane, appunto Riccardo Scamarcio, un giovane che lavora in uno studio di pubblicità ma che dentro di sé si sente assolutamente scrittore, ha il talento per farlo nonostante non sia riuscito ancora a scrivere un vero e proprio romanzo, viene rimbalzato da tutte le agenzie letterarie, molto depresso, viene a sapere della morte improvvisa e anche abbastanza misteriosa del padre, che era uno sceneggiatore di B-movie degli anni 70-80, uno che ha scritto cose molto popolari, anche popolaresche per il cinema, ma che aveva forse un segreto che dovrà essere svelato, e chissà che non sarà proprio il ragazzo d'oro rifiutato fino a questo momento e con un rapporto molto problematico con il padre, appunto Davide, figlio di Achille, appunto Riccardo Scamarcio, a risolvere questo enigma, forse trasformandosi lentamente proprio in quella figura del padre con il quale non ha mai avuto un rapporto affettivo vero e proprio. Ancora una volta il tema della paternità nel cinema di Pupi Avati è un tema dominante, soprattutto degli ultimi film, anche se questa volta qualcosa sembra girare a vuoto nella robusta macchina cinematografica del regista emiliano, uno che, come dire, ha scritto parti e pagine della storia del cinema italiano. Come dicevo, negli ultimi anni una produzione molto molto frequente, forse anche troppo, cioè forse anche in questo caso è mancato il livello di sedimentazione per affrontare questa storia magari con qualche graffio di regia un pochino più personale, di cui Pupi Avati è sicuramente chiaramente dotato. Alcune cose non girano nella sceneggiatura, i dialoghi a volte sembrano messi lì un pochino senza tantissima profondità. Funziona, a mio modo di vedere, piuttosto bene Riccardo Scamarcio invece nel ruolo del protagonista. Sharon Stone, avremmo voluto sentirla recitare, ovviamente il doppiaggio in questo caso attutisce un pochino gli spigoli. Insomma, un film che ha una storia, una trama, a mio modo di vedere, forte e anche potenzialmente avvincente sullo sfondo, quella di un figlio appunto che si deve lentamente trasformare nel padre per vivere quel successo che gli viene negato, ma che non riesce quasi mai a decollare e che tutto sommato rimane piuttosto opaco. Direi a questo punto, prima di affacciarci a un film che uscirà solo un giorno la prossima settimana e per cui ve ne parliamo subito anche con l'intervista a Gabriele Salvatores, giochiamo con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ho paura, la mia testa è come se mi scoppiasse. Dai, devi farcela. Dimmi dove ci incontriamo e vattene! La Rosa Purpurea @radio24.it, titolo, vostro indirizzo per provare a vincere una copia in Blu-ray delle due che abbiamo a disposizione di questo film che sveleremo la prossima settimana. E come dicevo, portiamoci avanti un pochino, perché si è invalsa negli ultimi mesi, insomma, questa abitudine da parte di alcune distribuzioni mettere un film in circolazione per uno, per due giorni, come fosse appunto un evento, una formula distributiva che sta incontrando un certo successo. Capita questo anche la settimana prossima, esattamente il 23 di settembre, solo il 23 di settembre, al nuovo film di Gabriele Salvatore, su un documentario intitolato Italy in a Day, che fa parte di un progetto più ampio lanciato da Ridley Scott in Inghilterra, in America, in Giappone, dove veniva chiesto praticamente a tutte le persone che avessero voluto con il loro telefonino, con il loro tablet, filmare qualcosa di una stessa giornata, di inviare appunto questo materiale poi al regista di riferimento sul territorio, in questo caso Gabriele Salvatore, che avrebbe poi provveduto a lavorare col suo staff per montarlo e farlo diventare un film, appunto, Italy in a Day, l'Italia in un giorno. Sentiamo Barbara Righini. Oltre 44.000 video per 2.200 ore di registrazione. Centinaia e centinaia di italiani hanno risposto più o meno un anno fa all'invito di Gabriele Salvatores di inviare un video che documentasse 24 ore della loro vita, precisamente quelle vissute il 26 ottobre 2013. Una quantità enorme di materiale che nelle mani del regista si è trasformato nel film documentario Italy in a Day. Un'equipe di selezionatori ha lavorato alla scrematura dei video e il risultato è un flusso di immagini che restituisce un'Italia affaticata, che lotta ma che non ha perso le speranze. Un vero e proprio censimento senza pretese di scientificità. Uno spaccato del bel paese dal ritmo incalzante e pieno di emozioni. Gabriele Salvatores. È un'Italia che soffre con dignità, diciamo, e anche con una cosa che è proprio nostra, italiana. Sai che questo progetto è un'idea di Ridley Scott, che è stato realizzato da lui e dai suoi collaboratori in tutto il mondo. La nostra, Italine Day, il nostro ha un che di italiano che secondo me traspare forte, che è anche un senso, mi viene da dire, tenerezza verso la vita e verso gli altri, e di umanità, che quindi un'Italia ferita ma che vuole andare avanti anche con qualche immagine sul futuro, che è fondamentale. Ho paura dei ladri, dei zombie, delle mummie, di non poter avere un figlio, di non averlo in futuro. Direi che abbiamo fatto una griglia, prima di tutto eliminando tutte, cioè, ci hanno lavorato più di 45 persone al montaggio, una griglia prima tecnica, ovviamente c'erano delle cose che non potevano essere proiettate, e poi sulla sincerità, sostanzialmente su quello, con questa cosa del web, eccetera, c'era la voglia esibizionistica anche, dove questa cosa si sentiva un pochino troppo lo abbiamo eliminato. Dall'altra parte però ti veniva un grande senso di responsabilità, perché questi erano tanti messaggi nelle bottiglie affidati nell'oceano della comunicazione. C'è una storia che fa da filo conduttore, quella del ragazzo che va in America. Sì. Perché la scelta di proprio quella storia a fare da filo? Sì, sono due astronauti in realtà, uno è Parmitano che Genton, e lui su questa strana posto una nave porta container. È lo stesso viaggio che hanno fatto i nonni per cercare lavoro negli Stati Uniti. Allora anche lui dice va per lavoro rifacendo lo stesso viaggio. Mi piaceva questa cosa dell'attraversare un oceano per garantirti un futuro, no? Anche se questo viaggio poi è in mezzo alle scatole dei container, però la voglia di mettersi in gioco. Direi che l'Italia è bella così com'è. E allora l'Italia è bella così com'è, insomma, una visione abbastanza ottimistica in questa ultima frase. Però Italine Day il 23 settembre e solo il 23 settembre al cinema, questo film di montaggio, documentario di montaggio di Gabriele Salvatore, davvero molto, molto interessante. A questo punto io vi ricordo che fra i film non italiani della settimana c'è un thriller che si intitola La preda perfetta, con Liam Neeson protagonista, per il quale noi regaliamo biglietti, come sempre la Rosa Purpurea porta al cinema i suoi ascoltatori. E allora i primi 5 ascoltatori che ci manderanno un SMS al numero 349-238-6666, ripeto 349-238-6666, i primi 5 che ci manderanno un SMS a questo numero avranno un biglietto per due persone per andare a vedere La preda perfetta. E allora via, scatenatevi con i vostri SMS. Sei un detective privato. Senza licenza. Faccio favori alle persone. E in cambio mi fanno dei regali. Allora, come posso aiutarti? Qualcuno ha rapito mia moglie. Ho pagato, ma l'hanno uccisa lo stesso. Voglio che trovi gli uomini che l'hanno fatto. E allora, questo è La preda perfetta, il film che facciamo vedere ai nostri ascoltatori al cinema. È il momento di risolvere il gioco della scorsa settimana. Sono nello SHIELD per proteggere la gente. Per costruire un mondo migliore, a volte è necessario distruggere quello vecchio. E questo crea nemici. E allora, si trattava di Capitan America Winter Soldier, l'ultimo episodio in ordine cronologico della nuova saga di Capitan America. Hanno indovinato per primi Michele Sanavia o Sanavia di Padova e Rosaria Marino di Napoli. Saranno loro a ricevere il Blu-ray di questo film che il nostro Giulio San Giorgio dalla redazione di Film TV ci racconta così. Ciao Giulio. Capitan America The Winter Soldier, capitolo secondo delle vicende di Capitan America e ulteriore tassello del mondo dei film Marvel, intreccia, e questo lo dico per chi si intende del fumetto, in modo molto sofisticato la reinvenzione della nuova serie e quella classica, e mentre fa spettacolo di serie A, scolpisce il protagonista con caratteri decisamente sorprendenti. Infatti è molto strano e molto politico vedere l'eroe patriottico per antonomasia essere scettico di fronte alla paranoia di sicurezza di un intero paese. Disco 3D, che è una gioia per lo sguardo, con immagine perfetta, ottima ricerca sulla profondità e nessun effetto assurdo di pop-up, e Disco 2D con gli extra, pochi, e per la prima volta, tra l'altro, per dichiarare mancanza di idee, manca il corto one shot presente in tutti gli altri Blu-ray della serie Marvel. Bene Giulio, per quanto riguarda invece le segnalazioni TV per la settimana che si sta aprendo, io ho voluto subito sottolineare la presenza venerdì 27 settembre su Rai 5 in prima serata alle 21:15 del film di Wim Wenders Pina, perché è davvero un film imperdibile. Sì, Pina di Wim Wenders, film dedicato a un mito, a una figura centrale dello spettacolo europeo del secolo scorso, la coreografa Pina Bausch, che morì 2 giorni prima di cominciare le prove per il film. Wenders ne ripercorre i passi di danza, ne racconta le storie, rielabora le sue invenzioni e le registra con uno dei 3D più sorprendenti che si siano mai visti. È un film imperdibile, un incontro tra cinema e danza ad altissimo livello, affascinante anche per chi, stretto e appiattito in TV, lo vede in due dimensioni. Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra puntata della Rosa Purpurea. Grazie per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo qui su Radio 24 per parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisi.